la versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori, 16:31 primi e 22 di secondi in diretta qui dagli studi di Radio 24 di Milano. Come sempre vi ringrazio per l'ascolto in diretta in podcast. Oscar Giannino per la versione di Oscar, e vi ricordo l'indirizzo versione di Oscar che è radio24.it. Come sempre per segnalare temi, io dico, ne approfitto per tutti coloro che continuano a proporre di intervenire per Italia non per giovani. Vedremo, molti di voi possono comunque rientrare perché li incastro su altri temi, però siamo andati avanti settimane e insomma spero che sia chiaro, perché altri iniziavano a dire sì però, quindi ohimè i cicli di trasmissione hanno un senso, ma poi non bisogna andare troppo lunghi. Però tutti coloro che continuano a scrivermi, io sto rispondendo a tutti e vedremo, per diversi di voi ci sono proposte, per così dire, perché tanto, come vedete, continuiamo sugli argomenti a toccare. Chi vuole parlare di università, chi vuole parlare, quindi continuate a scrivere se volete e troviamo la soluzione. Però detto tutto questo, oggi sapete che la giornata dal punto di vista dell'economia nazionale è appesa al Consiglio dei Ministri, che inizia praticamente adesso, non è ancora cominciato, ma di cui vediamo in serata quali sono gli esiti. Tutti stanno aspettando di capire quale sarà la fine della scelta del governo sulle cifre del documento economico e finanziario, cioè la legge di bilancio per l'anno prossimo. Avete trovato sui giornali italiani stamattina diverse indiscrezioni sul fatto che Gentiloni e Padoan hanno discusso su, cominciare dalla cifra di deficit indicata nel DEF. Padoan per il 2018 vuole tenere l'1,2% che era l'impegno con l'Europa, anche se nell'ultimo Ecofin avete letto che l'Europa ha iniziato ad aprire l'ipotesi che l'Italia possa andare fino all'1,8%, questa sarebbe la flessibilità che tutti negano che l'Europa ci concede, ma ce ne concederebbe un altro 0,6% di PIL se la crescita italiana resta insoddisfacente, cioè intorno all'1% anche in questo resto dell'anno, e vediamo per l'anno prossimo. E poi naturalmente, oltre alla cifra di deficit, di vedere qual è l'articolazione delle misure in termini generali, se e quali cessioni di quote ci saranno, visto che Renzi e il PD avevano detto no, ma Padoan aveva detto di sì, e quanta parte fiscale, quanti eventuali e di che tipo interventi sulle spese, ma soprattutto la parte fiscale, visto che ci si aspetta che oggi probabilmente no, ma entro domani o dopodomani c'è anche il decreto, la manovrina per intervenire sui 3,4 miliardi di euro come correzione per il deficit che Renzi ha fatto in più sulla legge di bilancio di quest'anno. Vedremo comunque, naturalmente Radio 24 resterà sul pezzo e vi informerà, a cominciare poi da Sebastiano Barisoni, se il Consiglio dei Ministri finisce prima della durata di Focus Economia. Ma oggi l'approfondimento lo facciamo su un tema delicato, importante, perché abbiamo un ospite che rappresenta un punto di vista molto qualificato su questo aspetto, cioè parliamo un secondo delle relazioni tra Europa e Stati Uniti. Avete trovato oggi sui giornali il resoconto del fatto che ieri G7 Economia si è concluso, G7 Energia, perdonatemi, si è concluso con un nulla di fatto. Il nulla di fatto ha implicato che non ci fosse un comunicato condiviso. Perché? Perché l'amministrazione americana ha chiesto ai membri del G7 europei e non solo europei di non procedere ad alcun comunicato di aggiornamento in ordine soprattutto agli obiettivi di realizzazione della COP21, la conferenza per i nuovi obiettivi energetici entro il 2030 da assumere per impedire 2 gradi Celsius di riscaldamento del clima mondiale, e perché l'amministrazione americana si è presentata dicendo: guardate, noi non vogliamo tirare per il momento il tavolo per aria, però intanto stiamo ancora studiando tutto il dossier di cosa significhino quegli impegni che erano stati assunti da Obama, e da questo punto di vista dateci ancora tempo. Allora, questo evento di ieri è in realtà l'ennesimo segnale di un problema, per così dire, aperto tra le due sponde dell'oceano. Con Trump le sedi multilaterali vengono a perdere di importanza, perché gli Stati Uniti sono per affrontare queste questioni. L'energia, come ha scritto Gianni Riotta stamattina sulla Stampa, è una partita per gli Stati Uniti che si gioca soprattutto con la Cina, cioè se la Cina resta con una parte di sua produzione energetica fossile molto forte, allora gli Stati Uniti dicono perché noi dobbiamo accelerare. Gli Stati Uniti a propria volta poi accelerano attraverso il mercato più che attraverso gli incentivi o i disincentivi pubblici. Piccolo segnalino, ieri avete visto che la capitalizzazione in borsa di Tesla ha superato quella di General Motors, che è tutto dire, perché naturalmente Tesla con la trazione solo elettrica non ha mai visto un dollaro di profitto fino a questo momento. La stessa cosa è stata nel settore del carbone. Io stesso ho fatto un'analisi oggi che non è piaciuta agli ambientalisti estremi, ma dico che la botta tirata la settimana scorsa agli obiettivi di restrizione del carbone stabiliti da Obama negli Stati Uniti, in realtà è una botta che, se andate a vedere gli addetti all'estrazione del carbone negli Stati Uniti negli ultimi 10 anni, sono già diminuiti della metà e gli investimenti sono molto diminuiti, tant'è che lo stato americano che produce più carbone è il Wyoming. Perché? Perché i giacimenti sono in superficie oggi e da molti anni tutti gli investimenti si sono spostati non solo verso lo shale gas e shale oil per accrescere l'indipendenza americana, ma naturalmente verso anche tutte le nuove fronte, delle nuove tecnologie per aumentare il rendimento energetico e con risorse non fossili. Però questo segnale sull'energia, oltre alla perdita di importanza delle tavole multilaterali, è un segnale della difficoltà che l'Europa sta attraversando nei confronti di Trump. Questo riguarda la politica geostrategica rispetto alle scelte di Trump a sorpresa pochi giorni fa, i missili tirati in Siria. 1, 2, l'atteggiamento nei confronti di Putin, che è cambiato e non corrisponde all'atteggiamento di grandi paesi europei che sono per frenare con le sanzioni a Putin, mentre Trump, che doveva essere l'amico di Putin, è diventato improvvisamente irrigidito, e quindi vedremo adesso il segretario di Stato Tillerson, che deve incontrare Putin, che cosa ci farà capire di questa nuova strategia americana. Insomma, sono tanti i capitoli di possibili incomprensioni, attriti forti rispetto a Obama tra le due sponde dell'Oceano Atlantico. Allora, per capire meglio cosa c'è da temere innanzitutto, perché ovviamente, siccome per l'Italia gli Stati Uniti sono uno sbocco delle nostre esportazioni e una fetta fondamentale del nostro surplus commerciale, quindi noi abbiamo un interesse diretto in gioco oltre alla multilateralità dell'Unione Europea, abbiamo un ospite particolare, perché è il direttore del Global Business and Economic Program dell'Atlantic Council, è stato un ex direttore esecutivo al Fondo Monetario per l'Italia e altri paesi dell'Europa meridionale, è stato per anni al Tesoro nel nostro paese, e quindi sommando l'esperienza diretta nell'amministrazione pubblica, ai vertici del Tesoro nel nostro paese, in fori internazionali di grandissimo rilievo come il Fondo Monetario, e stando negli Stati Uniti, ha, diciamo, tutte le migliori caratteristiche per farci capire meglio come è possibile lo sviluppo dei rapporti tra noi e gli Stati Uniti di Trump, e anche però quali problemi e quali rischi ci possono essere per l'Europa, ma soprattutto per l'Italia. Andrea Montanino, che ringrazio di essere disponibile per questa chiacchierata ai nostri microfoni. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Allora, possiamo partire da quello che è successo ieri. Una non sorpresa, direi, questa dal punto di vista energetico, ma compromette qualcosa per l'Europa, per l'Italia? Ma innanzitutto sono d'accordo con lei, è una non sorpresa, nel senso che l'amministrazione Trump ha bisogno di riportare l'industria pesante negli Stati Uniti. Questo è un po' un obiettivo che si sono dati con il Make America Great Again, e in quest'ottica tutto quello che è energia, diciamo, da fossili aiuta questo tipo di industria. Quindi gli americani non possono prendere degli impegni in termini rinnovabili, in termini di energia pulita, ma anche perché non dimentichiamoci che gli uomini che Trump ha scelto non sono persone che credono in queste cose. No, direi che Tillerson, come ex capo dell'ExxonMobil, non è esattamente uno antifossile. Sì, ma le posso dire, ad esempio, il nuovo capo dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente è un magistrato dell'Oklahoma che ha fatto una carriera finanziata dai petrolieri americani, soprattutto della zona dell'Oklahoma, e ha sistematicamente impugnato, quando era magistrato in Oklahoma, le misure per l'ambiente di Obama. Ha fatto una carriera finanziata dai petrolieri in maniera lecita, perché in America, voglio dire, si fa così. Proprio non perché è... lo sappiamo, però è manifesto come la pensa. Ecco. Assolutamente, quindi lui in questo momento è assolutamente coerente, solo che è il capo dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente, quindi... Quindi quella è la linea. Io, a dire la verità, sono dell'idea che se gli Stati Uniti si tirano indietro dagli impegni COP21 e l'intero quadro di realizzabilità di COP21 da ridiscutere. Ma perché io penso che anche per l'Italia gli oneri siano enormi e noi andiamo a colpire alcune specializzazioni della nostra manifattura. Chi è ambientalista la pensa diversamente. Da pochi giorni fa è stata presentata una strategia energetica di 5 Stelle che non dice chi paga e come il sovrappiù. Loro dicono: spostiamo tutti gli incentivi fossili alle nuove rinnovabili, neanche questo basta, e soprattutto secondo me non sono garantiti i punti di picco di chi ha bisogno per le sue lavorazioni di alta intensità, oltre che naturalmente di continuità di alto assorbimento di energia elettrica. Però al di là di tutto questo, lei pensa che andremo incontro a una rottura di quel tavolo per gli Stati Uniti? Guardi, credo che sia il primo sintomo della posizione che avranno gli americani su molti temi e che rendono però l'America in questo momento debole, nel senso poco credibile, perché se un paese come gli Stati Uniti prendono degli impegni davanti a tutto il mondo e poi ha un cambio, diciamo, di governo, anche un cambio radicale come è stato quello che c'è stato tra Obama e Trump, si ribalta al tavolo, chiaramente c'è un tema di credibilità dell'America, se vogliamo, come leader, come paese leader nel mondo, ma se vogliamo anche quello che è successo con la Siria e con Putin, no? Cioè, non è chiarissimo qual è la linea, quindi secondo me gli americani devono stare molto attenti, perché se il resto del mondo occidentale inizia a non considerarli più, diciamo, un partner credibile, potrebbero iniziare a guardare da qualche altra parte e quindi isolare gli Stati Uniti. Quindi non sono gli Stati Uniti che decidono di isolarsi, ma sono gli altri che isolano gli Stati Uniti. Ma noi siamo passati nel giro di pochissimi giorni da un'Europa che si interrogava per essere scavalcata nel filo putinismo da Trump, che tutta la campagna elettorale mandava segnali di questo tipo, al punto tale poi da rischiare anche in congresso, c'è una commissione di indagine il cui presidente è stato già travolto e così via, per i legami un po' impropri con la Russia. E improvvisamente noi ci troviamo da pochi giorni fa, dai missili tirati in Siria, dai toni che sono diventati molto duri tra Russia e amministrazione Trump, oggi c'è Mattarella in visita da Putin, ci troviamo a essere invece scavalcati in senso opposto, cioè da che sembrava che fossero i paesi est europei che chiedono un rafforzamento della NATO antirusso, a cui i russi sono molto irritati da anni, e sembra adesso che in realtà la durezza della parte est europea e la richiesta invece di paesi come l'Italia di alleggerire il regime di sanzioni con Putin venga totalmente scavalcato, ma in senso opposto rispetto a quello che si immaginasse. Sì, guardi, io credo che non sia ancora chiaro quale sarà la posizione nei confronti dei russi. Io ero convinto che Putin avrebbe chiesto al primo ministro Gentiloni di invitare i russi al G7, di ritornare al G8 fino a qualche settimana fa, perché poteva essere un'occasione, diciamo, di normalizzazione dei rapporti con i russi. Ovviamente adesso non è così, però le devo dire un'altra cosa. Qualche settimana fa l'amministrazione Trump ha scelto il nuovo ambasciatore a Mosca e ha scelto un personaggio che peraltro è il capo della mia think tank, dell'Atlantic Council, che è un repubblicano molto moderato, è stato ambasciatore in Cina quando Hillary Clinton quindi un era conciliante segretario. Un conciliante, quindi quando io ho visto che la persona che era stata scelta per la Russia non era un falco, era un repubblicano ma conciliante, perché aveva lavorato, ripeto, sotto la Clinton segretario di Stato, quindi una persona molto riconosciuta come una persona pacata, ho detto saranno rapporti, diciamo, come sono sempre stati tra l'America e la Russia, duri quando bisogna essere duri, flessibili quando si deve essere flessibili. Tutto sommato era sembrato che Trump facesse molto affidamento sul fatto che cambiasse proprio un po' il segno dei rapporti con gli Stati Uniti, con Obama non si prendeva proprio, per così dire. È compromessa questa cosa secondo lei? No, io non penso che alla fine, diciamo, sia Putin che Trump sono abbastanza pragmatici e quindi cercheranno, insomma, si stanno posizionando, ecco, soprattutto Trump in questo momento si sta posizionando. Forse lui ha avuto molte critiche a Washington per un'apertura eccessiva alla Russia, o quella che sembrava un'apertura eccessiva alla Russia. Quindi si riequilibra. Quindi forse si è riequilibrato per ricominciare da capo, diciamo, è un punto di partenza della discussione. Ma venendo alla questione europea, il sostegno che Trump non ha negato, ma anzi ha molto rafforzato, incontrando la May, eccetera, eccetera, a Brexit, ha molto irritato le cancellerie europee, per così dire, che sono incerte tra assumere una posizione hard sulla Brexit nella trattativa oppure, diciamo, andare verso toni più concilianti per farsi meno male gli uni con gli altri. Certo è che se uno ragiona con l'ottica di Berlino, il sostegno di Trump a Brexit sembra un pugno all'occhio. Ma io penso che Trump stia facendo un errore nei confronti dell'Europa in genere, cioè quello di considerare un punto di forza dal suo punto di vista un'Europa divisa piuttosto che un'Europa unita. Quindi l'idea che non si va più per il multilateralismo ma si fanno accordi bilaterali, che si tratta con le singole cancellerie europee, e soprattutto le parole che lui ha usato non solo sulla Brexit ma anche sull'Unione Europea nel suo insieme, è un errore, perché se lei parla con una qualunque azienda americana che esporta in Europa, le dirà che preferisce avere a che fare con una burocrazia, mettiamola così, o con un sistema di regole abbastanza simile attraverso l'Europa, piuttosto che discutere con 28 paesi diversi. E soprattutto anche dal punto di vista, diciamo, geopolitico, un'Europa troppo debole, un'Europa divisa, non può svolgere quel ruolo, diciamo, di front line nelle crisi in giro per il mondo, soprattutto le crisi intorno all'Europa, Ucraina, Siria, Libia, e che servono agli Stati Uniti, perché se l'Europa è troppo debole e non può occuparsi, diciamo, delle crisi che gli stanno intorno, prima o poi devono intervenire gli americani, cosa che peraltro hanno fatto. Un minuto di traffico e poi torniamo con il nostro ospite per interrogarci su questa nuova presidenza Trump e questi ultimi sviluppi proprio di questi ultimi giorni. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova, pantera.it col TH. Vi presenta... La versione di Oscar. Eccoci qui a interrogarci di nuovo in diretta su cosa ci può riservare questa amministrazione americana che sta cambiando nel tempo rispetto a quello che tutti si aspettavano e già davano come scontato, e lo stiamo facendo con un testimone privilegiato, perché Andrea Montanino, che è con noi, è direttore del Global Business and Economic Program dell'Atlantic Council, è un ex dirigente del Tesoro italiano, ex direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale. Cambia agli occhi di Trump rispetto a Obama l'interesse rappresentato per le priorità della sua amministrazione dell'Italia, per quello che sa e conosce dell'Italia o possiamo immaginare che sappia, registra un cambiamento verso il peggio, verso il meglio secondo lei? Ma diciamo, l'Italia ha un tema fondamentale con gli Stati Uniti, che è i rapporti di scambio, il surplus commerciale. La differenza, diciamo, tra quanto esportiamo noi negli Stati Uniti e quanto gli Stati Uniti esportano da noi sono circa 28-30 miliardi di euro, 2 punti di PIL, sì. A nostro vantaggio. Siamo uno dei paesi che ha il maggiore surplus commerciale con gli Stati Uniti, quindi le nostre merci piacciono, tirano, parliamo spesso di beni tecnologici. Lei ha citato prima la Tesla X ha moltissime componenti italiane sì. di aziende italiane che forniscono alta tecnologia, quindi per noi è fondamentale mantenere aperto il canale commerciale. Qualunque dazio potrebbe penalizzarci, anche se io non credo che Trump arriverà a inserire dazi. Ritengo che il suo obiettivo sia un altro, il suo obiettivo è mantenere un tasso di cambio tra il dollaro e l'euro e tra il dollaro e la valuta cinese non troppo sfavorevole agli Stati Uniti. Ha paura dell'apprezzamento del cambio, quindi minaccia dazi per poi arrivare a discutere di cambi. Se così fosse, diciamo, non dovrebbe danneggiarci particolarmente. Quindi dobbiamo tenere aperto il canale del commercio. C'è un'opportunità però di questa America trampiana per l'Italia e per le aziende italiane, che è quello di investire negli Stati Uniti. Cioè, se veramente ci saranno incentivi, se veramente Trump perseguirà questa idea di riportare la manifattura negli Stati Uniti, è chiaro che ci sono medie aziende italiane, non parlo delle grandi basta, ma medie aziende italiane molto competitive, che se riescono a fare il salto e portare parte delle loro aziende negli Stati Uniti si apriranno a quell'enorme mercato con vantaggi anche per gli stabilimenti e i lavoratori che rimangono in Italia. Da questo punto di vista la riforma fiscale è un canale attraverso il quale passa il reshoring, cioè il ritorno in America della manifattura, e naturalmente l'aumento degli investimenti diretti esteri, perché aumenta la loro convenienza. Però il primo atto col congresso su un fatto politico molto rilevante, l'Obamacare, ha visto Trump rimbalzare con pezzi del suo stesso partito che gli hanno detto attraverso la bocca di Paul Ryan non si passa. Quando si tratterà di arrivare al pacchetto fiscale, cioè di scendere per esempio con l'aliquota, l'equivalente del nostro IRES dal 35% attuale al 15%, come vuole in campagna elettorale, l'impegno di Trump è questo. Il Congresso le passa quelle proposte oppure no? Guarda, il Congresso, diciamo, un Congresso repubblicano chiaramente è favorevole a meno tasse. Il tema vero è che gli Stati Uniti oggi hanno un debito pubblico elevatissimo, il livello del debito pubblico americano oggi è il più alto dalla Seconda Guerra Mondiale. Quindi immaginare di fare ulteriore deficit e quindi far crescere il debito, io ho qualche dubbio. Quindi probabilmente la riduzione delle tasse sì, ma questo dovrà essere accompagnato da un taglio di spesa, che era un po' l'idea dell'Obamacare. Alla fine la questione della riforma sanitaria è che questo avrebbe determinato un risparmio di più di 2 punti di PIL a regime di spesa pubblica, e quindi si sarebbe creato il margine per la riduzione delle tasse. Ora che non è passato questo elemento, bisogna capire dove Trump troverà i soldi, anche perché oltre a ridurre le tasse vuole aumentare le spese militari e vuole aumentare le spese in infrastrutture. Quindi come si tengono insieme le cose non lo so, sono materie che poi noi italiani conosciamo bene, perché dobbiamo sempre incastrare debito, spesa e entrate. E nei confronti della Merkel, la risposta tedesca alla richiesta di aumentare la quota parte di finanziamento alla difesa, cioè dovete arrivare almeno al 2% del PIL, è stata durissima e secchissima per chi conosce il linguaggio diplomatico tedesco, cioè non se ne parla proprio, e fuori dal mondo immaginare che noi che siamo all'1,2% arriviamo al 2%, e chi ce lo chiede non conosce la nostra storia, è stata addirittura la risposta. Perché non si intendono Merkel e Trump? Ma non si intendono perché chiaramente Trump, diciamo, in quest'area, come dire, un po' da adesso non voglio usare un termine troppo forte, ma insomma da giullare, mettiamola così, da persona che magari gli fa la battuta, lo scherzo, eccetera, non ha lo stile rigoroso e compassato della Merkel, e quindi non si piacciono. Poi ovviamente alla Merkel tutte le volte che gli si tocca il tema del commercio e dell'export salta su una sedia, perché voglio dire, la Germania è il paese al mondo che ha il più grande surplus commerciale, cioè neanche i cinesi hanno l'8% del PIL di surplus, e quindi un presidente degli Stati Uniti che inizia a parlare di dazi, che inizia a dire che vuole creare protezionismo, che inizia a dire che vuole restringere il commercio, ovviamente la fa imbestialire, soprattutto quando poi gli chiede di spendere soldi per la difesa, che insomma è un tema appunto delicato in Germania. E da questo punto di vista, noi, rispetto ai nostri specifici problemi di immigrazione e di un ruolo molto timido, noi abbiamo scelto nella politica medio orientale, in tutta la faccenda dell'ISIS e così via, ma anche della Libia, voglio dire, ci abbiamo messo anni per riunire i 60 capi tribù, è stato Minniti prima di lui, andava fatto, nessuno l'ha fatto. Noi abbiamo sul Mediterraneo e nei confronti del problema del terrorismo, diciamo, una linea classicamente italiana, andreottiana, diciamo facciamo pochissimo. Su questo, secondo lei, l'America ci chiede di fare di più o capisce la nostra linea? Guardi, l'America di Obama chiedeva di fare di più. La Libia era un tema per l'amministrazione precedente e voleva l'Italia in qualche modo più presente. Ma noi non lo abbiamo fatto. Secondo me dovremmo farlo, però c'è un tema. Abbiamo il capitale politico per farlo. Su questa sua battuta finale, io ho rispettato il fatto che non abbiamo voluto chiedere da ex dirigente del Tesoro che desse giudizi troppo sull'Italia, però spero che i nostri ascoltatori abbiano capito che Andrea Montanino, diciamo, è un periscopio da tenere molto ben presente per capire cosa succede lì, per vedere qual è il nostro interesse rispetto a quello che succede davvero lì. Quindi grazie ad Andrea Montanino, continuate su Radio 24 con Focus Economia, appuntamento con me Alessandro Mina domani mattina alle 8:20, attenti a noi due.